tempo sta sprecando ancora. Senti il tuo destino stringere alla gola un rantolo sospiro che ti fa paura. E anche se brilla il giorno dentro te già sera, una strana sensazione che ti fa tremare, una vertigine che sale, non riesci a sostenere. Non esiste un posto dove ti puoi rifugiare, ma solo che a mostrarti la mia soluzione.